Gera, la balumsina, la bara della poladente. Ce l'aveva con la camera d'aria della bicicletta, ce la rompeva con la buca e dopo ce l'aveva intorno del cotone, del spavino. Qualcosa per tenere fermo l'aria. E ci scriveva e chiamava i Zoe. No, me li doppiava la tamburella. Col pugno la balonzina, l'era col pugno, né? Col Tamburella pugno, vestita da... era col pugno la balonzina. E era quel che chiamava i Zoghi, no? Tamburella era pesata per quei po' benestanti, signorotti. No, la La balonzina. balonzina era la Polasè che la seguiva. E la tamburella era un po' i fiori. Mettiva tutti i giovani con piazza. Piazza Marchetti, chi? Gli svegliava la balonzina e Drio la cera, gli svegliava il tamburello. Pensare ai segantini.